voi state pigliando per il culo, perciò vattene in affanculo tu e potrai mangiare tu io. Non corretti il balcone, ti sentiamo le possibili, dai. Rispondi l'amico per i saluti. Sbagasse mamma tua, coglione. Tanto da domani ti piombo di telefonate. Dovrei staccare quel telefono. Faccio schifo, però domani faccio come fare quella bagassa mamma tua. Doscio. Tanto me ne sono accorto da oggi che floscio quanto è te, capito? Che dai, per carità. Oh Mario, esci a fare lo stronzo. O devo dare il tuo numero qua in frequenza. Beh, c'è il 243364. 243364. Hai capito, brutto coglio? Brutto coglio! Dentro, caro, capito? Tanto lo so che paracura. Almeno tu già ti salvi, capito? Dillo Snoopy che mi fa squillare il telefono. Bagasse mamma tua, capito? Che mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto i coglioni! Se lo dovrà cambiare tua madre, numero qua non faccio il 243364, vedi? Come lo so a memoria il tuo numero, bastardo, oppure 2113, hai capito? Brutto coglione! Coglione! Mario, passa 40, mezza, tanto io ho abbassato la suoneria, se mi vuoi chiamare. Senti, mi rompo il culo, capito? Te l'ho detto. C'è una persona, a quella lì si chiederò 100.000 lire, capito? E venire qua domani mattina, capito? Già lo sai che c'è il motorino, eh? Anna, ti puoi divertire quanto ti pare di viaggio, mi ha messo importante. Tanto il baracchino ti dura poco. E giocati adesso con Anna, capito? Giocati, tranca che ti dura il baracchino, capito? Vuoi che domani te fa quella bagassone tua madre? Eh? A vuoi che te fa quella bagassone ma tua? Adesso ne sveglio quella bagassone tua madre. Hai capito, coglione? Tanto finché sarai in cura a te e a quella grande bagassone mamma tua. Sai che ti ho trafferato a casa tua? Eh? Vuoi che ti trafferò tutta la notte a casa tua? A svegliarne quella bagassone mamma tua? Vuoi questo? Brutto coglione! Adesso ne abbiamo di telefonata a quella grande bagaccia mamma tua, hai capito? Che mi ha rotto i coglioni! Se parlare in pace, brutto froscio. Perché non attacchi telefono che ne sveglio con la bagaccia mamma tua? Brutto coglione, froscio drogato! Froscio nato. Lo picchi in culo a quella bagaccia mamma tua, hai capito? Che mi ha rotto i coglioni! Tu hai svegliato quella bagassone tua madre, c'è andare alla peloce. Chi è Paoletto? E non sai chi è, e intanto non ho perso nessuno, per carità. Ma chi è Paoletto? Danilo Sanna, capito? Ma Snoopy? E io? Però ti ho telefonato, no? Perché domani mattina vengo a casa tua, e vieni, che ti conduce. E domani non ne dorme tua madre, froscionato. Scompare, guarda, il numero tuo ce l'ho, hai capito, stronzo. Adesso, boh. Stanotte c'è caldo, boh.